Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Sono le 21 e 2 minuti e a Radio 24 è il momento di Effetto Notte, anche questa sera in compagnia mia, cioè di Marta Cagnola. Questa sera e domani sera ancora con voi per Effetto Notte, per scoprire un po' quali sono state le notizie che hanno caratterizzato la giornata di oggi. Intanto i titoli: Turchia, fermato da giorni nel paese, Gabriele Del Grande riesce a contattare i familiari, annuncia lo sciopero della fame, stasera previste nuove proteste contro l'esito del referendum. Preparavano attacco ai candidati delle presidenziali francesi, due affiliati ISIS fermati a Marsiglia. L'annuncio della Premier May: l'8 giugno elezioni anticipate in Gran Bretagna. La vigilia di Barcellona-Juventus, ci bastano 3 minuti per fare 3 gol, proclama il tecnico blaugrana Luis Enrique. E questa sera la Champions sceglie le sue 2 prime semifinaliste. E cominciamo con le tensioni in Turchia. Stasera in molte città previste nuove proteste contro l'esito del referendum sul presidenzialismo, mentre il blogger, giornalista, regista italiano Gabriele Del Grande è riuscito finalmente a comunicare con i suoi familiari. Gabriele Del Grande sta bene, lo ha detto lui stesso in una telefonata alla compagna, aggiungendo che da questa sera inizierà uno sciopero della fame. Non mi hanno torto un capello, ma hanno sequestrato il mio telefono e le mie cose e non mi lasciano fare telefonate, ha spiegato il giornalista e documentarista fermato nella Turchia meridionale, nella provincia di Hatay, vicino al confine con la Siria. Da lì è stato poi portato in un centro di detenzione amministrativa a Mula. I miei documenti sono in regola, ha specificato, ma non mi è stato permesso di chiamare un avvocato, né mi è stato detto quando finirà il fermo. Del Grande era stato fermato il 10 aprile perché si trovava in una zona del paese nella quale non è consentito l'accesso. Nel frattempo, mentre l'opposizione fa ricorso per l'annullamento del voto referendario, Erdogan incassa le congratulazioni di Donald Trump. L'OSCE intanto ha fatto sapere di avere il sospetto che fino a 2,5 milioni di schede possano essere state manipolate, ma proprio alle accuse dell'OSCE Erdogan aveva risposto già ieri dicendo: state al vostro posto, non prenderemo in considerazione rapporti preparati con motivazioni politiche. Marco Barbonaglia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Istanbul. E nella prima intervista alla CNN dopo la vittoria al referendum, il presidente Erdogan ha accusato l'Unione Europea di aver fallito nel mantenere le promesse, facendo riferimento allo stallo nei negoziati tra l'Unione e il suo paese. Ci hanno fatto attendere alla porta per 54 anni, ha detto. Questo dal punto di vista delle relazioni politiche non è tollerabile. Abbiamo provato ad accettare tutte le richieste dell'Unione, ma non ha mantenuto le sue promesse e le deve mantenere. Erdogan ha poi aggiunto: se le manterranno, allora ci siederemo al tavolo, aspettiamo quali saranno le mosse che verranno prese. Il 2017, anno di elezioni non solo in Francia e Germania, al voto a sorpresa anche la Gran Bretagna. I have just chaired a meeting of the cabinet where we agreed that the government should call a general election to be held on the 8th of June. Una data ravvicinata all'8 giugno e un obiettivo chiaro: proteggere la Brexit. Avevo sempre detto che ero contraria ad elezioni anticipate, ha riconosciuto la premier conservatrice davanti al numero 10 di Downing Street, ma ho cambiato idea per l'opposizione degli altri partiti che hanno promesso di porre limiti e ostacoli all'uscita dall'Unione. Elezioni, insomma, per ottenere una leadership più forte e non indebolire il percorso. Questo è il motivo ufficiale, dietro però ce n'è un altro: gli esiti di un sondaggio che assegna ai Tories ben 21 punti percentuali di vantaggio sui laburisti, il distacco più grande dell'ultimo decennio. Elezioni che restano comunque un rischio, una sfida lanciata mentre l'Unione non si scompone affatto. Le linee guida per il negoziato della Brexit non subiranno alcuna variazione, ha precisato il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, che però un sassolino dalla scarpa se l'è tolto. Quella della Brexit, ha scritto su Twitter, è una sceneggiatura alla Alfred Hitchcock. Anna Rita Lambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E di questo argomento parleremo diffusamente tra poco in uno degli approfondimenti del nostro Effetto Notte. E a proposito, dicevamo delle imminenti presidenziali francesi, sul voto si allunga la minaccia terroristica. È stata sventata un'azione violenta imminente, il cui obiettivo e luogo non sono stati precisati. Lo ha confermato in una conferenza stampa il procuratore della Repubblica François Molin. Preparavano un attacco ai candidati alle presidenziali, due affiliati ISIS fermati a Marsiglia. famiglia. Nell'appartamento sono stati trovati, tra l'altro, insieme ad armi ed esplosivi, foto di bambini sotto i bombardamenti, versetti inneggianti alla vendetta. Secondo Molin, i due arrestati hanno legami con reti in Belgio. Sulle elezioni presidenziali più incerte di sempre si allunga l'ombra del terrorismo. Questa mattina gli uomini dei corpi speciali del Ministero dell'Interno hanno fermato a Marsiglia due uomini di 23-29 anni di nazionalità francese che, secondo gli inquirenti, stavano per realizzare un attentato. Durante le perquisizioni sono state scoperte armi, materiali per la preparazione di esplosivo e un video in cui i due giurano fedeltà allo Stato islamico. Sullo sfondo un'immagine di François Fillon, il candidato della destra. Sembra che non ci siano certezze sull'obiettivo, ma è quasi sicuro che fosse legato al voto, alla campagna elettorale, tant'è che fin da giovedì scorso la polizia aveva messo in allarme i servizi di sicurezza di tre candidati, appunto Fillon, l'ex ministro dell'economia Emmanuel Macron, e la leader dell'estrema destra Marine Le Pen, sull'esistenza di questo rischio, trasmettendo le foto dei due uomini ricercati da una settimana. Infatti il meeting di Fillon a Montpellier venerdì scorso si è svolto sotto stretta sorveglianza, come sarà domani sera per il comizio della Le Pen proprio a Marsiglia. Il ministro dell'Interno Mattias Fekl ha ribadito che la minaccia terroristica è elevatissima e ha annunciato che a garantire la sicurezza dei seggi domenica prossima saranno ben 50.000 poliziotti e gendarmi, più 10.000 militari. Marco Mussanè, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi. Ancora sugli esteri, le tensioni tra gli Stati Uniti e la Nord Corea. È finita l'ora della pazienza strategica. Gli Stati Uniti cercheranno di garantire la sicurezza nella zona della Corea del Sud con mezzi pacifici, ma tutte le opzioni sono sul tavolo. A parlare è il vicepresidente americano Mike Pence. La risposta di Pyongyang non si è fatta attendere. Una guerra nucleare potrebbe scoppiare da un momento all'altro nella penisola, ha detto l'ambasciatore nordcoreano all'ONU Kim In-ryong, parlando coi giornalisti a Palazzo di Vetro. Intanto il primo ministro giapponese Shinzo Abe chiede una soluzione pacifica alla crisi durante il suo incontro di oggi col vicepresidente degli Stati Uniti Pence. Ieri in un tweet Trump ha affermato che la Cina sta lavorando proprio con gli Stati Uniti per risolvere il problema nordcoreano. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In casa nostra tengono banco le audizioni sul DEF, il documento di economia e finanza, e dal Fondo Mondiale Internazionale. Nel frattempo timidi segnali di incoraggiamento anche per il nostro paese. Al via, con il consueto giro di audizioni, l'iter in Parlamento del documento di economia e finanza. Il provvedimento è stato però accolto con freddezza dai sindacati, secondo i quali mancherebbe di coraggio. In particolare l'accusa è di non aver osato abbastanza nei confronti dell'Europa. Ma per la CGIL la nota più dolente riguarda la previsione sulla disoccupazione. Susanna Camusso. Ci pare preoccupante una previsione di mantenimento dei tassi di disoccupazione, che nella previsione non scendono mai neanche sotto il 10, quindi una distanza molto significativa rispetto a quello che dovrebbe essere la priorità del paese. La crescita italiana, pur debole, è feconda di posti di lavoro, con 716.000 persone occupate in più dal gennaio 2014, dice dal canto suo Confindustria, che chiede al governo di perseguire con coraggio sulla strada delle riforme. Il direttore del Centro Studi, Luca Paolazzi. Il sentiero tra il risanamento delle finanze pubbliche e il sostegno all'economia è reso stretto dal ridotto potenziale di crescita dell'Italia. Questa constatazione è un ulteriore sprone per seguire con coraggio e determinazione la strada delle riforme strutturali. Domani sarà la volta del ministro dell'economia Padoan, di Banca Italia e della Corte dei Conti. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Ora apriamo la pagina della cronaca. Una persona e non due, come si era preso in primo momento, è morta nell'incidente nautico avvenuto nel pomeriggio nel porto di Rimini. Tre persone risultano disperse, mentre due sono state portate in ospedale in codice rosso, a quanto si apprende da fonti della Protezione Civile. La barca si è schiantata contro la scogliera mentre cercava di rientrare in porto per via delle avverse condizioni meteo. Sul porto di Rimini, dove continuano a volteggiare due elicotteri alla ricerca dei dispersi, ha iniziato a piovere in maniera molto intensa e ha ricominciato a tirare un forte vento, come quello che ha tirato per quasi tutta la giornata sulla costa riminese, rendendo più complicato ogni intervento. Un altro cavalcavia crollato all'improvviso, miracolosamente questa volta senza vittime. Sotto shock ma illesi si definiscono due miracolati i carabinieri scampati al crollo di una rampa d'accesso al viadotto della tangenziale di Fossano. I militari erano impegnati in un posto di blocco sulla strada sottostante. Sentiti alcuni scricchiolii, hanno fatto appena in tempo ad allontanarsi dalla struttura che è crollata schiacciando la loro auto. Sul cavalcavia fortunatamente non c'erano veicoli in transito. La tangenziale di Fossano è stata subito chiusa al traffico, mentre la procura di Cuneo ha aperto un'inchiesta e ha disposto una perizia tecnica per accertare cause e responsabilità di quanto accaduto. Anche l'ANAS ha avviato un'indagine. Il governatore del Piemonte, Chiamparino, ha definito inaccettabile il crollo di una costruzione che ha poco più di 25 anni e ha chiesto all'ANAS di verificare la sicurezza di tutte le strutture simili presenti sul territorio piemontese. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Una cerimonia tra lacrime e risate. Impossibile non piangere la mancanza di Gianni Boncompagni, ma altrettanto impossibile non sorridere ricordandolo. C'erano tutti gli amici di una vita e di una carriera a salutarlo nella sede della Radio Rai di Via Asiago. Tra i primi ad arrivare, Renzo Arbore. Non si può parlare, perché salivamo queste scale sempre ridendo, pronti a fare delle malefatte, non soltanto radiofoniche, ma anche nella vita. Sfottendo tutti quelli che lavoravano, i nostri amici tecnici, i collaboratori, le cose strane, quindi Asiago per noi è un posto indimenticabile. Ancora una volta Report, il programma di inchiesta di Rai 3 al centro delle polemiche. Tesi prive di fondamento. La comunità scientifica scende in campo contro Report, la puntata dedicata al vaccino contro il papillomavirus, in cui si parlava di effetti avversi. Interviene il ministro della Salute Beatrice Lorenzin. Diffondere paura propugnando tesi antiscientifiche è un atto di grave disinformazione. Il vaccino contro il papillomavirus è il primo contro il cancro che l'uomo è riuscito a produrre. Roberto Burioni, professore ordinario di microbiologia e virologia del San Raffaele, parla di abuso perverso della libertà d'opinione. La RAI si difende, l'azienda è da sempre a supporto delle campagne vaccinali, mentre il conduttore Sigfrido Ranucci spiega che Report non ha mai messo in dubbio l'utilità dei vaccini. Ma sulla trasmissione di Rai 3 arriva anche la querela di Roberto Benigni. Il premio Oscar è al centro di un'inchiesta sui finanziamenti allo spettacolo per la vicenda degli studi di Papigno in Umbria, dove Benigni ha girato La vita bella e Pinocchio. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ora parliamo di calcio, serata di Champions League in attesa domani di Barcellona-Juventus. Questa sera tocca al Leicester City contro l'Atletico Madrid e al Real Madrid contro il Bayern di Monaco. Ci aggiorna Giovanni Capuano. Ciao Giovanni. Eccomi Marta, ciao, buonasera. Beh, intanto ti aggiorno che c'è già un gol da raccontare ed è quello dell'Atletico Madrid a Leicester, 1-0, gol l'ha segnato 3 minuti fa, siamo alla mezz'ora, il gol è arrivato al 26esimo e l'ha segnato con un preciso colpo di testa Saúl Núñez su un assist di Felipe Luis. Partita che era stata sin lì equilibrata, gli inglesi dovevano recuperare l'1-0 dell'andata perché avevano perso con lo stesso risultato Madrid. Ora l'Atletico è avanti per 1-0 anche in casa del Leicester, che è stata fino a 2 mesi fa la casa di Claudio Ranieri, tecnico italiano che l'anno scorso ha compiuto il capolavoro di vincere la Premier League. Dunque per il Leicester si mette davvero in salita, perché a questo punto sono 3 gol che deve segnare per eliminare l'Atletico Madrid. Nell'altra squadra di Madrid invece, al Santiago Bernabeu, il Reale sullo 0-0 con il Bayern di Monaco. Siamo alla mezz'ora esatta del primo tempo. Real Madrid che ha vinto 2-1 fuori casa a Monaco di Baviera settimana scorsa. È una bella partita questa, molto equilibrata, con tantissime occasioni. Ne ha avuta una proprio pochi istanti fa il Real Madrid, con un salvataggio sulla linea a Neuer battuto. Ne aveva avuta anche un'altra al 25esimo con Carvajal. Attenzione però, perché anche il Bayern di Monaco, che è la squadra di Carletto Ancelotti, si è fatto vedere in questa prima mezz'ora un paio di volte pericoloso dalle parti del portiere del Real Madrid. Questa è una partita che ancora non consente un pronostico, anche se il vantaggio dell'andata, lo ripetiamo, 2-1 in trasferta per il Real Madrid, che è campione d'Europa in carica, è un vantaggio importante. Grazie a Giovanni Capuano, ci aggiorniamo più tardi nel corso di Effetto Notte. Adesso una brevissima pausa, il traffico, poi parleremo di esteri. Stazioni di servizio Costantin, se ti fermi ti conviene. Vi presenta Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Turchia ha fermato, da giorni nel paese, Gabriele Del Grande riesce a contattare i familiari e annuncia lo sciopero della fame. Questa sera previste nuove proteste contro l'esito del referendum. Preparavano attacco a candidati alle presidenziali francesi due affiliati ISIS fermati a Marsiglia. L'annuncio della Premier May, l'8 giugno elezioni anticipate in Gran Bretagna. La vigilia di Barcellona-Juventus, ci bastano 3 minuti per fare 3 gol, proclama il tecnico blaugrana Luis Enrique. E questa sera la Champions sceglie le sue 2 prime semifinaliste. I have just chaired a meeting of the cabinet where we agreed that the government should call a general election to be held on the 8th of June. Allora, general elections, elezioni generali, ma anche elezioni anticipate, perché queste elezioni sono state indette l'8 giugno. Parliamo di Gran Bretagna, la voce che avete sentito è quella del primo ministro Theresa May. Cosa sta succedendo in Gran Bretagna? Ci avevano già stupito, e si erano stupiti anche loro, del risultato del sondaggio del referendum sulla Brexit. E ci ricordiamo molto bene quello che è successo. Adesso potremo dire un nuovo colpo di scena. Abbiamo collegata con noi al telefono esperta di esteri del Foglio, Paola Peduzzi. Ciao Paola. Buonasera, ciao Marta. Allora, Paola, stavo chiamando te Marta, insomma, mi sono impazzita. Paola, è stato un colpo di scena, te lo aspettavi, ce l'aspettavamo? No, non se l'aspettava nessuno, perché la mia detto per tutto quest'anno che non c'è facciamo un po' fatica a sentirti, sentiamo un po' se riusciamo, poi sveliamo dove ti trovi, vediamo se riusciamo a sentirti per bene. Insomma, dicevi è stato un colpo di scena. Stiamo cercando di richiamare Paola Peduzzi. Intanto ascoltiamo cosa ha detto ancora Theresa May. Abbiamo parlato delle elezioni anticipate l'8 giugno, abbiamo un altro brevissimo estratto di quello che ha annunciato oggi, appunto a sorpresa, Theresa May. We have also delivered on the mandate that we were handed by the referendum result. Britain is leaving the European Union and there can be no turning back. No turning back. Non torniamo indietro sulla Brexit. L'abbiamo ritrovata Paola Peduzzi? Eccomi. Eccoci qua. Paola, allora, sorpresa queste elezioni anticipate? Sì, ma sarebbe anticipato, voleva arrivare alla legislatura, invece c'è stato questo cambio di... Direi che non riusciamo proprio a sentirla. Allora facciamo una cosa, ci trasferiamo per un attimo di paese, anzi per un attimo, insomma apriamo un'altra finestra su un altro paese. Proviamo a capire se riusciamo a collegarci ancora con Paola Peduzzi per capire un po' di questa sorpresa di Theresa May. Ma cosa facciamo dall'Inghilterra, visto dalla Gran Bretagna, visto che non è l'unico paese in cui si vota, non a sorpresa, ma si voterà anche in Francia. Allora, io sono molto contenta di avere in studio, accanto a me, di fronte a me, chi avesse seguito nei mesi scorsi RadioTube sa che è stato nostro ospite e mi ha illuminato sulle elezioni francesi, quindi questa sera lo volevo accanto a me perché io per prima voglio avere un quadro di quello che sta succedendo. Attilio Geroni, ti ho fatto scendere dai piani alti del Sole 24 Ore. Grazie. Ciao Marta, Attilio. Buonasera a tutti voi, grazie a te. Allora, cosa facciamo? Abbiamo scommesso sull'esito delle elezioni? Ma io non scommetterei una lira perché no. L'esito di una lira, no, un euro o un franco. Un franco. O un franco perché, sai, si ritorna alle monete nazionali, qualcuno vorrebbe tornare alle monete nazionali. No, non scommetto perché i 4 principali candidati sono tutti e 4 dentro il margine di errore. Mm. E sappiamo dopo l'esperienza di Brexit e dopo quella di Trump che il margine di errore non è più di 3-4 punti percentuali, ma forse di più. Quindi, per chi si occupa di esteri, questi mesi sono stati il banco di prova di qualsiasi certezza. C'è una curva di apprendimento molto lunga. Brexit mi ha colto completamente di sorpresa, ero molto più inquieto con Trump e sono ancora più inquieto per la Francia. Ok, quindi non ti chiediamo quanto sarai inquieto poi per l'8 giugno a questo punto. Allora, qual è la situazione allo stato dell'arte delle elezioni francesi? Noi abbiamo... Come vedi prendo appunti. Noi abbiamo questi quattro candidati, Emmanuel Macron che è il candidato di En Marche, no? La novità, l'outsider che ha creato dal nulla un movimento che è intorno al 23-24%, più o meno appaiato a Marine Le Pen, Fronte Nazionale 23%, e Fillon 18%, se la contende con la novità delle ultime settimane, con la destra, la sinistra radicale di Jean-Luc Mélenchon, che è diventato il quarto uomo delle elezioni, quindi creando una sorta di panico negli ambienti finanziari, nei mercati finanziari, una possibile ballottaggio addirittura, lo scenario così, secondo alcuni, secondo me anche abbastanza cupo e catastrofico, tra Jean-Luc Mélenchon e Marine Le Pen. Allora, noi per settimane ci siamo sentiti raccontare che Emmanuel Macron era il golden boy, era il candidato favorito, accattivante, ma mi stai dicendo 23-24%, quindi forse tutte queste certezze che ci eravamo costruiti noi non erano così solide. Solide restano, ma per fortuna che in queste elezioni, sai che insomma c'è una scuola di pensiero al Sole 24 Ore molto forte, molto pro Macron, no? E Macron resta una grande novità, e per fortuna che è venuto fuori lui alle elezioni. Mi dà sempre un'impressione di precarietà, no? Ho visto, ho seguito, sono stato in Francia settimana scorsa, alcuni dibattiti televisivi, lui è molto bravo, però i candidati, ci sono altri candidati altrettanto bravi, altrettanto forse più demagoghi di lui, ad esempio Jean-Luc Mélenchon, uno no, può non condividere le sue idee, io in buona parte, anzi completamente non le condivido, ma è un oratore formidabile, un comunicatore strepitoso, e quindi lui ha guadagnato, ha capitalizzato Mélenchon in questo periodo, a discapito probabilmente anche di Macron, perché Macron andava a pescare nel Partito Socialista. Certo. Partito Socialista si è dissolto, si è sciolto, non esiste più in queste elezioni presidenziali. E quindi Mélenchon probabilmente ha capitalizzato anche lì. È un programma strano, speculare a quello di Marine Le Pen, no? Certo. Estremo, fuori dall'euro, fuori dalla NATO, fuori dalle organizzazioni multilaterali. Quindi è un programma del momento, no? E devo dire che però Fillon, nonostante tutto, è vivo e lotta con noi. No, perché se hai detto 18%, comunque ancora in questo... Sì, si direbbe against all odds, esatto. Quindi nonostante tutto, nonostante lo scandalo, il Penelope Gate, Fillon resiste, però se pensi che Fillon aveva in tasca la vittoria delle presidenziali, no? Quando ha vinto le primarie, anche lì a sorpresa nei confronti d'Alain Juppé, quindi ecco, la cosa interessante di queste presidenziali è che è una lunga catena di sorprese, ecco, vorrei che non si arrivasse alla sorpresa finale. Beh, occuparsi di esteri sta diventando una lunga catena di sorprese. Sorrido, c'è poco da sorridere in questo periodo, però effettivamente per quanto riguarda le elezioni. Sentiamo se siamo riusciti a recuperare Paola Peduzzi. Paola! Sì, eccomi. Eccola qua, svelaci dove sei, svelalo anche ad Attilio Gerone. In questo momento ciao, dove Paola. Ti trovi? Ciao, sono a Digione all'ultimo comizio prima del primo turno di Mélenchon, che questa sera era... suo famoso ologramma in altre sei città, invece qua Digione era in carne e ossa, ha parlato per due ore ininterrottamente senza mai leggere nulla, ha letto soltanto alla fine una poesia e qua ci credono tantissimo, dicono tutti di essere molto ottimisti perché intorno le condizioni sono molto cambiate. Macron sta attraversando, come dicevate prima, un momento un po' più volatile, come si dice, e invece qui si sentono tutti molto molto solidi. Non c'è un sondaggio che abbia ancora detto che al secondo turno ci sia Mélenchon contro la Le Pen, però la sua progressione nelle ultime settimane, determinata anche dall'implosione del Partito Socialista, è stata abbastanza sorprendente. Accidenti, quindi sono delle elezioni, vabbè, ci aspettiamo anche qui di tutto. Paola, volevo tornare però alla domanda iniziale, visto che abbiamo fatto un po' di Gran Bretagna, un po' di Francia. Quanto si gioca Theresa May con queste elezioni anticipate? Beh, Theresa May si gioca tutto, credo che sia la prima vera sfida della sua carriera politica, si sa che è un premier molto cauto, molto calcolatore, e qua ha fatto un azzardo rimangiandosi anche la parola che aveva dato di non andare a elezioni anticipate. Invece ci va l'8 giugno, c'è pochissimo tempo per far campagna elettorale, lei parte con un vantaggio consistente che è quello di 20-21 punti percentuali secondo i sondaggi rispetto al Labour, che è un altro partito di sinistra che è abbastanza imploso sulla questione Brexit in particolare. Quindi la sua è una prova di forza dettata appunto da questo contesto completamente cambiato, un'opposizione che non esiste, però è anche vero che sarà comunque un referendum sulla Brexit e che quindi le forze anti-Brexit, quel famoso 48%, tenterà di organizzarsi. Ha molto poco tempo. Però la tabella di marcia sulla Brexit, lei ha detto, rimane la stessa. Sì, lei vuole andare avanti, i negoziati devono andare avanti e lei vuole ovviamente il mandato popolare, che è l'unica cosa che le manca, essendo nel 2015 non era lei che ha dato premier. Per cui lei vuole arrivare dopo queste elezioni ad avere anche questo mandato popolare e poi fare il negoziato da una posizione di forza. La fotografia odierna le dà ragione ovviamente, perché non c'è nessuno in grado di contenderle la premiership, però è anche vero che c'è un attimo di tempo per organizzarsi, non si sa, attorno al Partito Liberal Democratico, che è quello più europeista, che era praticamente scomparso al voto del 2015 e che adesso invece è ringalluzzito, o attorno ai moderati del Partito Laburista, che sono contrari alla leadership di Corbyn e che devono però trovarsi un leader, un punto di riferimento che al momento ancora non c'è. Grazie a Paola Peduzzi, Il Foglio. Grazie anche perché appunto l'abbiamo disturbata in Francia per parlare di Gran Bretagna. Grazie Paola. Grazie a voi, buona serata. Ciao Paola. Ho dovuto svelare questa cosa, che ho chiesto a Paola di raccontarci di Theresa May, ma si trovava in Francia. Insomma, è normale per chi si occupa di esteri, però assolutamente, anche perché ormai questi scenari è una scacchiera sulla quale dobbiamo cercare di calcolare tutte le mosse, e guardando questi numeri che mi hai dato e che mi sono segnata qui, insomma, imprevedibili. Assolutamente sì. Cosa si gioca tutta l'Europa con queste elezioni, intanto con queste francesi? Si gioca l'Europa, cioè il futuro dell'Europa, secondo me, perché il processo, la vittoria eventuale di Marine Le Pen oppure un ballottaggio Le Pen-Mélenchon può iniziare una reazione, avviare una reazione a catena che può portare alla fine, secondo me, del progetto europeo. Sappiamo, no, che vuole uscire dall'unione monetaria, però anche se poi questa retorica è stata un po' attenuata, perché in Francia paradossalmente la maggior parte dei francesi non vuole uscire dall'euro, e lei dice sempre rispetterò la vostra volontà, quindi vi sottoporrò a un referendum, cosa non facile, perché poi sappiamo che dopo le presidenziali, molto importanti, anzi importantissime, diventeranno le legislative del 13 giugno, e se è improbabile, difficile che Marine Le Pen vinca, stiamo parlando dello scenario, di uno scenario così, è ancora più difficile. Al netto di tutte le variabili e le sorprese di cui dicevamo prima. È ancora più difficile e improbabile che possa avere una maggioranza parlamentare. Allora, per fare il referendum, cambiare la Costituzione, sono necessarie delle solide maggioranze parlamentari, quindi si potrebbe anche non arrivare, ma sappiamo che i mercati sono suscettibili. Infatti la mia domanda successiva era: oggi in questi giorni i mercati con gli occhi aperti, perché sì, poi si innamorano degli scenari catastrofici. Adesso c'è un po' di tensione sullo spread tra il decennale francese e il Bund tedesco, c'è tensione ma non ancora panico. Ecco, la mia paura è che di fronte a un ballottaggio Mélenchon Le Pen, lo spread riparta ai livelli, e questo non coinvolge solo la Francia, certo, coinvolge tutta l'Unione Monetaria Europea, tutta l'Unione Europea, ai livelli del 2011-2012. C'è chi dirà che questo è lo scenario catastrofico fatto apposta per spaventare chi è. No, secondo me è uno scenario plausibile e realistico nel caso in cui si andasse a un ballottaggio del genere. E quindi reazione a catena, e chi c'è dopo la Francia? C'è l'Italia. Ebbene, sì. Bello dare queste belle notizie. Dai, per una sera non parliamo di venti di guerra, parliamo di altre notizie. Vabbè, insomma, cioè, comunque teniamo le cinture allacciate, caro Attilio. Grazie ad Attilio Geroni. Grazie, Marta, a voi. Grazie mille. Allora, volevo solo dare una notizia dell'ultima ora prima della pausa, perché è intervenuta la Farnesina sulla vicenda del giornalista Gabriele Del Grande fermato in Turchia. Chiede che sia rimesso in libertà nel pieno rispetto della legge. Il ministro Alfano, si legge in una nota, ha disposto l'invio a Mugla, dove Del Grande è detenuto, del console d'Italia a Smirne, mentre l'ambasciatore d'Italia ad Ankara ha trasmesso alle autorità turche la richiesta di visita consolare, come previsto dalla Convenzione di Vienna. Una breve pausa e poi saremo ancora insieme con Effetto Notte. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. I titoli del nostro Effetto Notte: Turchia, fermato da giorni nel paese, Gabriele Del Grande riesce a contattare i familiari e annuncia lo sciopero della fame. Stasera previste nuove proteste contro l'esito del referendum. Preparavano attacco ai candidati dalle presidenziali francesi, due affiliati ISIS fermati a Marsiglia. L'annuncio della Premier May, l'8 giugno elezioni anticipate in Gran Bretagna. La vigilia di Barcellona-Juventus, ci bastano 3 minuti per fare 3 gol, proclama il tecnico blaugrana Luis Enrique. E questa sera la Champions sceglie le sue 2 prime semifinaliste. Il sodalizio artistico va bene. Sono felice per tutti i complimenti che hanno fatto a Gianni, che è nato in queste mura con la radio e poi è passato alla televisione. Ma quello che ho potuto vivere è godermi Giannino, come lo chiamavo io, in casa sua con le sue 3 figliole che io ho visto crescere insieme a lui. E quindi è la parte dell'uomo che io mi porterò dietro. Si è andato via piano piano, per cui abbiamo potuto ancora ridere, scherzare. C'è un coraggio da leone ed è un uomo molto sereno, è un uomo che abbiamo accarezzato, gli abbiamo dato tanti bacini prima di lasciarlo andare. La dolcezza, la commozione di Raffaella Carrà, davvero... È davvero commovente sentire queste parole per ricordare Gianni Boncompagni, mancato il giorno di Pasqua. È stato veramente un dolore per tutti coloro che l'hanno conosciuto attraverso il piccolo schermo, chi l'ha conosciuto con la radio, chi l'ha conosciuto con la TV del mezzogiorno, chi l'ha amato come la mia generazione per i programmi come Non è la Rai. È stato veramente un innovatore. Siete ancora in compagnia di Effetto Notte, siete ancora in compagnia questa sera di Marta Cagnola fino alle 22, e vorrei proprio parlarvi di Gianni Boncompagni. Per me è stato veramente un grosso colpo sapere della sua scomparsa, perché era come se fosse una persona di famiglia per chi ha seguito anni di programmi televisivi pensati con grande libertà e grande così spirito di follia da quest'uomo veramente particolare. Io sono molto onorata e anche parecchio emozionata di poter ricordare la figura di Gianni Boncompagni con una vera grandissima signora della televisione italiana. Vabbè, la presento solo col suo nome. Davvero grazie per essere con noi, a Enrica Bonaccorti. Buonasera, signora Bonaccorti. Beh, grazie, ma smettila subito, dammi del tu. No, tutti questa roba, grazie. Mi sembra che sono morta io e non Gianni. No, sì, Enrica, dai, guarda, ragazzi, è una cosa, io sono ma allora lo dicevo prima, adesso io poi io svelo sempre retroscena, perché stavo anch'io chiacchierando sempre, con brava, Enrica con, stavo chiacchierando con Anna Rita D'Ambrosio prima della trasmissione, e io dicevo: due conduttrici per me sono sempre state il mio mito, le mie fonti di ispirazione, Enza Sampo ed Enrica Bonaccorti. Oh, che complimento che mi fai, guarda, a parte il fatto che io poi negli anni sono diventata anche amica di Enza, perlomeno telefonicamente, poi ci si vede una volta ogni 10 anni, ma sai che il rapporto ormai si avvale anche di questi mezzi, certo, dal telefono ai social e tutto. E Enza veramente, che era un mito della mia, quando ero piccola, diciamo così, perché sono qualche anno più di me, Per me è sempre veramente una grande signora, con una voce meravigliosa e con un'attenzione a quello che fa eccezionale, semplicità, eleganza naturale, senza tante storie. E insomma, per me è così, Enrica Buonaccorti. Ah, oh, vabbè, grazie, che bel complimento. Enrica, con te Gianni Boncompagni ha aperto una porta nelle nostre vite così nuova. Aveva cominciato con Raffaella Carrà, abbiamo cominciato ad accendere la televisione all'ora di pranzo. Certo, e poi io ho continuato sempre a mezzogiorno, mi sono seduta su quel divano per 2 anni, i 2 anni di Raffaella e poi i miei 2 anni, che erano praticamente la fotocopia dell'impianto, no? Ho avuto questo grande onore, questa grande fortuna. Per non dire altro, proprio una grandissima fortuna, perché io sono una pulce rispetto a Raffaella, per carità, però essendo seduta su quello stesso trono, facendo praticamente le stesse cose, tranne i balletti e i canti, ecco, ho anche così, diciamo, inglobato quella sua polvere d'oro che la circonda. Ha ragione, perché lei è l'unica diva internazionale che noi abbiamo in Italia. L'altra poteva essere Mina, ma ha quella sua preziosa assenza, poi ha paura dell'aereo, figurati, Raffaella sta sempre in aereo. Per cui, guarda, per me è stato Gianni Boncompagni uno degli incontri più importanti della mia vita professionale, in assoluto forse il più importante. Ma lui faceva un po' paura? No, a me non ha fatto mai paura, mi ha sempre fatto ridere, mi ha fatto anche arrabbiare delle volte, perché sai, come tutti i bambini dagli 11 ai 13, che lui non è che si sia spostato molto da quell'età. Ah, che meraviglia! Geniali, ti fanno anche dispetti, ti fanno innervosire, per carità. Però guarda, lui mi ha tolto le carte dalle mani praticamente. Io venivo da 3 anni di Italia Sera, che è la mamma, diciamo, di tutti i programmi pomeridiani, quotidiani, con i 2 che stanno lì o 1. Insomma, io abbiamo cominciato questo spazio tutti i giorni su Rai 1, prima del telegiornale, prima con D'Amato e poi con Badaloni, per cui io mi scrivevo tutto, era una cosa giornalistica praticamente, no? E quando mi dicono che devo fare quel programma lì del mezzogiorno, che io non volevo farlo, stavo già preparando il 4º anno con la mia redazione di Italia Sera, però sai, non la voleva fare nessuno, nessuno ha voluto prendere il posto di Raffaella, hanno chiamato i più grossi nomi, la Cardinale, Vianello, Mondaini, insomma, nessuno. Allora precettano me, che ero l'ultima ruota del carro, e io ero un po' disperatella, anzi molto disperata, pensavo, anche il pubblico, sai, era disperato. Sì, sì. Hanno fatto un sondaggio che il 95% diceva: cosa c'entra la Buonaccorti lì? Ah beh, che bel momento, così è proprio carino, facile, no? Partire così. Però l'hanno rifatto 2 mesi dopo e più del 95% diceva che andavo benissimo. Infatti il programma non è che andò bene, andò benissimo. E poi ho imparato a buttar via le carte, a non scrivermi più i miei interventi. Allora non c'erano gli autori, mi scrivevo tutto, insomma, da Italia Sera. E lì ho cominciato a interagire, a essere come sono io. Sempre un po' intimorita, perché la mia educazione mi diceva che se uno entra nelle case degli altri deve essere più educato che, no? E per cui, ecco, io ho sempre avuto un po' questa pattina che a volte mi hanno detto: ah, perché non ti smolli? E beh, perché mamma mi ha detto che se uno entra in casa non si toglie le scarpe, no? Ecco, queste cose qua. E poi c'è stata la grande avventura di Non è la Rai, l'inizio della grande avventura di Non è la Rai. L'unica cosa che ti interessa a te, tutta della mia fascia di età, la mia generazione, io ero un po' più grandina delle ragazze, forse un filo più grandina di alcune ragazze della Rai. A noi ha cambiato la vita. Io questa sera, perché vabbè, sono alla radio, ma io dovevo venire a fare la trasmissione, l'ho scritto su Twitter, con un vestitino di velluto nero dell'epoca, ce l'ho ancora, perché noi eravamo proprio io sono rimasta bellissimo. Molto affezionata e molto legata a tutte quelle ragazze, veramente non ce n'è una che non a cui non abbia voluto bene. E poco fa ho visto su Facebook che Gaia Camossi, non so se te la ricordi, quella che ha capelli rossi, che era oggi alla cerimonia per Gianni, mi ha scritto, solo questo ti dico, mi ha scritto: sei la persona che mi ha fatto più piacere rincontrare oggi. Per quanto rapporto avevo con queste ragazze a cui volevo bene e per cui ero preoccupatissima, Marta. Sì. E invece ho avuto delle meravigliose sorprese. Ambra in primis, perché è veramente una bella persona, una gran brava attrice. Ma poi anche tante altre, proprio, che hanno fatto un percorso buono, insomma, potevano montarsi la testa, potevano diventare matte, potevano buttarsi via. No, non ho notizie di questo tipo. Enrica, nei ricordi che hai sentito e letto in questi giorni di Gianni Boncompagni, cosa ti ha colpito? Che tutti dicono la stessa cosa che dico io, pensavo di essere l'unica, ma lo dicono tutti. Che ci ha insegnato l'improvvisazione su una base, ovviamente, ma l'improvvisazione, cioè ci ha insegnato ad agire come nella vita, a reagire come nella vita alle cose che accadono, a non essere preparati, a non avere il minutaggio per forza stretto. E lui ci governava dall'alto con le inquadrature, però tu eri libera, insomma. Libera, ti dava questa libertà sul talento, ovviamente, no? Certo, certo. Guarda che non è la RAI, è stata veramente una grande, grande innovazione. Mi è dispiaciuto tanto l'incidente di percorso di quella truffa che hanno tentato di fare e che veramente mi ha un po' uccisa, nel senso che io ho troppa emotività per fare questo lavoro, infatti, perché partecipo moltissimo e questo invece sarebbe meglio rimanere un po' più distaccati, ma io non sono così intelligente come per esempio era Gianni Boncompagni che aveva quel suo sano distacco, quasi cinismo. Io per niente. Mi affeziono, mi interesso la gente, quando facevo i cani, meno male che non avevo case in campagna, altrimenti me ne compravo 300, hai capito? Devo stare attenta. Ed Gianni è per questo che aiutato, noi ci siamo sempre Gianni affezionati tanto, Enrica Bonaccorti, questa è la verità. Sì, lo sento, devo dire che lo sento, è una grandissima compagnia e vi ringrazio molto. Poi sto parlando sulla mia radio preferita, perché quando non la faccio io la radio, voi siete la mia radio preferita. Grazie, grazie Enrica, veramente, che gioia. Sì. Per cui grazie, bravi, ci siete così. Grazie Enrica Bonaccorti per questa emozione di aver ricordato insieme a lei una persona che è stata davvero tanto importante per noi spettatori, Gianni Boncompagni. Grazie Enrica. Grazie Marta, un abbraccio a tutti e buona vita. Un abbraccio forte a Enrica Bonaccorti, una brevissima pausa e poi saremo ancora insieme per l'ultima parte di Effetto Notte. Faircam Air & Ocean non conosce confini. Spedizioni aeree marittime in tutto il mondo. Faircam.com vi presenta. Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. I titoli del nostro Effetto Notte per l'ultimo spicchio della trasmissione. Turchia, fermato da giorni nel paese, Gabriele Del Grande riesce a contattare i familiari e annuncia lo sciopero della fame. Questa sera previste nuove proteste contro l'esito del referendum. Preparavano un attacco ai candidati delle presidenziali francesi, due affiliati ISIS fermati a Marsiglia. L'annuncio della Premier May, l'8 giugno elezioni anticipate in Gran Bretagna, la vigilia di Barcellona-Juventus, ci bastano 3 minuti per fare 3 gol, proclama il tecnico blaugrana Luis Enrique e questa sera la Champions League sceglie le sue 2 prime semifinaliste. My name is Stevie Steve on there. This go any lands, anybody, all of them got me on there. I snapped, dog. I just killed 13 motherfuckers, man. That's what I did. I killed 13 people. Ho ucciso 13 persone. Una notizia di cronaca che arriva dagli Stati Uniti, l'avrete sentita, è una notizia veramente sconvolgente. Un uomo che ha ucciso una persona in diretta su Facebook Live, poi è scomparso per svariate ore, è stato ricercato e poi è stato trovato e si è tolto la vita. Tutto questo ha fatto scalpore anche per il fatto che quest'uomo avesse ucciso un anziano in diretta Facebook Live. Segno dei tempi, una particolare in più che comunque così riguarda una notizia che era comunque gravissima. Certo che questo particolare ci fa riflettere il fatto che qualcuno possa uccidere anche solo per fare una diretta su Facebook Live. Tante le polemiche che hanno riguardato questo caso e che hanno riguardato proprio il social network. E così per saperne un po' di più abbiamo in studio Enrico Pagliarini. Ciao Enrico. Insomma, buonasera. A differenza buonasera di quello che facciamo il sabato pomeriggio, che parliamo di cose amene, di tendenze, di tecnologia, sorridendo anche un po', questa volta invece la notizia è molto più amara. Sì, non c'è nulla da sorridere ovviamente, però questa è una delle conseguenze di un servizio di streaming video aperto a tutto il mondo. Ricordiamo certo. Che sono grosso modo 2 miliardi le persone che accedono a Facebook e ognuna di queste persone può, così come potremmo fare noi in questo momento, andare in diretta e farsi vedere da un pubblico che può essere quello dei propri amici a un pubblico che può anche essere più vasto. Ovviamente essendo su Facebook e non essendo alla TV tradizionale, il pubblico è normalmente abbastanza limitato a meno di eventi o a meno di personaggi, però questa può essere una delle conseguenze. Come si può rimediare? È molto complicato. Allora, Facebook rimedia a questi eventi e non è la prima volta che accade una cosa simile. Allora, è la prima volta che è possibile vedere, e alcune persone hanno visto questa tragedia in diretta, cioè stiamo parlando di un omicidio. In altri casi ci sono stati dei casi di violenza, però tutti i casi che hanno fatto discutere e che hanno fatto chiedere a varie persone, a varie autorità, a varie istituzioni un intervento molto più veloce del social network. Come funziona il sistema di allerta ed eventualmente poi anche di cancellazione o di blocco di questi video, di questi account? In modo molto semplice, incredibilmente semplice vorrei dire, chi vede una cosa del genere può, così come possiamo fare tutti noi, può segnalare a Facebook l'inadeguatezza del contenuto. Non c'è nessun tipo di sistema automatico, Facebook stesso ha detto ci sono centinaia di persone che ogni settimana vedono milioni di contenuti, perché stiamo parlando di video in questo caso, ma possiamo parlare anche di altro tipo di contenuto. Ognuno di noi può segnalare questo contenuto. Ci sono persone che all'interno della struttura di Facebook si prendono. Umani che lo fanno, umani, quindi non è una umani. Cosa automatica. Tant'è che Facebook ha detto e lo ha ribadito in un qualche modo Zuckerberg, il fondatore, nonché numero uno guida di Facebook, poche, forse nemmeno un'ora fa, a F8, perché è in corso in queste ore la conferenza per gli sviluppatori a San José, se non sbaglio, in California. Uh-huh. Magari possiamo anche sentire la voce di Zuckerberg. Eccola qua. We're reminded of this this week by the tragedy in Cleveland. And our hearts go out to the family and friends of Robert Godwin Sr. Dice: abbiamo ancora molto da fare, ce l'ha ricordato questa settimana la tragedia accaduta a Cleveland. Zuckerberg ha fatto le condoglianze alla famiglia, agli amici di Robert Godwin, che è questo signore anziano che è stato ucciso. Abbiamo molto lavoro da fare, faremo tutto ciò che è possibile per prevenire tragedie come queste. In un comunicato diffuso ieri, Facebook ha detto: rivedremo il flusso con cui avvengono le segnalazioni di cui parlavamo prima. Perché qui si tratta di riuscire a intanto accorgersi molto velocemente che si tratta di una cosa grave. Certo. Perché figuratevi quante segnalazioni avvengono e molte di queste non sono gravi. Soprattutto per rimuovere il video. Certo, è impossibile fare qualcosa per evitare il fatto. Perché No, quello non è possibile. Non è possibile. Ma è quasi impossibile anche con sistemi che si stanno studiando di intelligenza artificiale, sistemi con algoritmi automatici, è quasi impossibile, se non veramente impossibile, riuscire a prevenire un fatto del genere anche nella messa in onda. Non è che io posso sapere quello che sta succedendo. C'è un ascoltatore che al 349-238-6666 dice: ci sono similitudini tra quelli che fanno stragi coi camion e questo pazzo, la stessa folle mania di protagonismo. Sì, qui non ci sono motivazioni di altro genere, seppure ovviamente estremamente discutibili. Se non ci fosse Facebook Live ci sarebbe un'altra cosa per mettersi in mostra, probabilmente. Sì, certo, non lo so, questo non lo so. Però per fare un paragone, visto che stiamo stiamo parlando di questo sistema di allerta che a seguito di un'allerta di una persona che sta vedendo un fatto del genere segnala a Facebook che quel fatto dovrebbe essere cancellato e tolto dalla visione, è un po' quello che succede alle chiamate ai servizi di emergenza. Cioè, ci sono dei dati, certo. Però immaginate quante sono le chiamate false, cioè di gente che chiama e segnala cose che non esistono. Hanno rubato qui, c'è uno che mi sta aggredendo. Quindi già il primo passo è capire se una cosa è vera, o non è vera. Poi va verificato l'evento vero e proprio. Queste persone devono andare online. Adesso in questo caso è evidente, no? È evidente, però immaginiamo tutte le segnalazioni che arrivano e immaginiamo anche tutti i casi in cui è violenza o non è violenza, è un fatto reale che può essere visto da tutti, cioè certo. Il confine è molto labile, molto difficile tant'è che per adesso ci sono gli umani. Non so se i sistemi di intelligenza artificiale a breve, anzi sicuramente a breve, non riusciranno a sostituire la capacità degli umani. Grazie Enrico Pagliarini, abbiamo un ultimo minuto di Effetto Notte, andiamo a vedere come vanno le partite di Champions League questa sera con Giovanni Capuano. Ciao Giovanni. Ciao Marta, sempre più interessante. Allora, liquidiamo in una battuta all'Eister Atletico Madrid, 1-0 per l'Atletico Madrid, il gol al 26esimo del primo tempo di Saúl, e l'Atletico Madrid ha già vinto anche all'andata 1-0, quindi l'Eister deve segnarne 3 se vuole pensare di andare alle semifinali, ma la cosa più interessante sta succedendo al Bernabeu, dove il Bayern Monaco è avanti 1-0, ha segnato su calcio di rigore Lewandowski un paio di minuti fa, siamo al decimo minuto della ripresa, fallo di Casemiro su Robben, qualche istante prima Marcelo con un salvataggio miracoloso sulla linea aveva evitato il vantaggio di Robben, Bayern Monaco che in questo secondo tempo sta letteralmente dominando. Ricordiamo che all'andata il Real Madrid ha vinto a Monaco di Baviera per 2-1, quindi in questo momento è ancora qualificato il Real Madrid alle semifinali, ma al Bayern di Monaco basterebbe un gol per compiere l'impresa e qualificarsi alle semifinali, quindi davvero partita apertissima, ma del resto lo avevamo già detto nel primo tempo, tante occasioni per il Real Madrid, ma il Bayern Monaco di Carletto Ancelotti era assolutamente vivo. E poi c'è quella maledizione che vuole che dalla fondazione della Champions League mai una squadra è stata capace di vincere per 2 anni di fila, il Real Madrid ha vinto l'anno scorso nella finale di Milano contro l'Atletico e quindi quest'anno è candidata a non riuscire a vincere il trofeo, almeno per la cabala. Chissà. Grazie a Giovanni Capuano. Devo ringraziare anche Andrea Roccabelli in regia e Cristian Goldoni in redazione. Chiudiamo qui Effetto Notte, ci ritroviamo tra poco per i titoli del giornale radio delle 22. Da Marta Cagnola ancora una buona serata.